Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Come già vi ricordavano i nostri GR, sicuramente il dato, ahimè, sulla disoccupazione, che vale per tutta Europa, ma non si può dire in questo caso mal comune mezzo gaudio, vale anche per la Germania, che ha visto aumentare leggermente il numero dei disoccupati, contro attese di un calo dei disoccupati in Germania. Però insomma il dato è pesante su tutti e su tutta Europa. Si conferma la Spagna come il paese con la maggiore disoccupazione in Europa. L'Italia purtroppo vede crescere la disoccupazione al 9,8%, che è il dato più forte dal 2000 se guardiamo il trimestre su trimestre, ma ancora una volta si conferma che la crisi dal punto di vista occupazionale si sta scaricando soprattutto sui giovani. Perché lo dico? Perché la disoccupazione giovanile è aumentata di 2 punti percentuali rispetto a un anno prima, cioè è andata al 35, rispetto a febbraio, è andata dal 33,9 al 35,9, mentre la disoccupazione in media, quella di tutti, è salita dello 0,2% rispetto a febbraio. Quindi c'è un dato 10 volte superiore in quanto su quanto sono aumentati i disoccupati giovani tra marzo e febbraio rispetto a quanto non siano aumentati i disoccupati in media. E questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto riguarda il fatto che invece gli occupati in Italia sono rimasti abbastanza stabili. Ora l'obiezione di molti sarà: ma come fanno ad aumentare i disoccupati? Sono aumentati i disoccupati in Italia in un anno di 475.000 unità. Come fanno a aumentare i disoccupati di quasi 500.000 di persone e restare ferma e fissa l'occupazione? Lo spiegheremo nella seconda ora, ma vi anticipo che l'occupazione fotografa chi effettivamente lavora rispetto a tutti quelli che potrebbero lavorare, e quindi la nostra occupazione è ancora al 55% ed è poco mossa, mentre la disoccupazione si occupa solo di quelli che cercano effettivamente lavoro e non lo trovano, cioè non tiene in considerazione i cosiddetti inattivi, chi potrebbe lavorare ma per vari motivi non lo fa, perché vuole fare lavori domestici, perché si è preso un anno di pausa, perché ritiene che non ci sia lavoro in giro e quindi non va nemmeno a cercarlo questo lavoro. Quindi l'occupazione è chi effettivamente lavora, ha fatto 100 il numero di chi potrebbe, la disoccupazione è chi effettivamente cerca un posto di lavoro e non solo non ce l'ha il lavoro. Com'è che è aumentata la disoccupazione nonostante l'occupazione si afferma? Perché molti, da quello che vediamo, poi ne parleremo, degli inattivi, cioè di quelli che prima non cercavano nemmeno il lavoro per svariati motivi, per via della crisi hanno deciso di cercarlo questo lavoro. Magari una poteva essere casalinga e risparmiare in questo modo i soldi delle spese domestiche per un'aiutata domestica, oppure uno poteva essere iscritto a un corso di formazione. In sostanza la crisi morde così tanto che anche chi prima riteneva di non doverlo cercare il lavoro adesso si è messo a cercarlo, e conseguentemente da un punto di vista statistico entra nelle liste dei disoccupati. Ecco perché hai occupati quasi invariati e disoccupati invece in forte aumento, e questa è la prima notizia. La seconda riguarda le borse. In realtà le borse reagiscono a questa notizia, perché il dato a livello europeo vede la disoccupazione salire al 10,9%, e questo vuol dire che siamo in Europa al livello di disoccupazione più alto dal marzo del 2001. Per dirla con la battuta del ministro Tremonti che abbiamo fatto, dell'ex ministro Tremonti che abbiamo fatto sentire ieri, beh, uno potrebbe dire nel 2001 non si stava così male. Ricorderete quando Tremonti minimizzò sulla recessione in atto dicendo siamo andati indietro di 2 anni, non si stava così male 2 anni fa. Chiaramente il ragionamento non può essere questo. I mercati, dicevo, reagiscono a un dato che certifica un'Europa col freno a mano tirato, in cui i consumi sono in calo, il PIL pure, e aumentano i disoccupati, e le borse oggi, Carlo, ma soprattutto in Italia, e qui abbiamo il tema delle banche. L'Italia perde il 2,33%, Francoforte perde lo 0,80%, Londra un punto percentuale, Parigi addirittura guadagna lo 0,40%, l'America meno 0,37%, l'euro è indebolito a quota 1,31,48%, da noi un calo più forte di tutti gli altri. Perché? Perché UbiBanca perde il 7%, Monte dei Paschi il 6%, Unicredito perde il 5,5%, la Popolare di Milano il 5,20%, come la Popolare Emilia Romagna, il Banco Popolare perde il 4,40%, come Intesa San Paolo. E poi c'è anche il caso di Salvatore Ferragamo, ma quello è un titolo che è cresciuto moltissimo, qualche realizzo ci sta, meno 6,33%, Mediaset invece, i temi riguardano ancora la raccolta pubblicitaria, meno 5,60%, A2A meno 5,40%. Siccome da noi le banche pesano molto sull'indice, non deve sorprendere un indice di Milano peggiore rispetto alla media europea. Ultima cifra, 349-238-6666 per i vostri sms. Partiremo in apertura però anche tornando sulla spending review, sulle scelte fatte dal governo per e quindi Enrico Bondi, ma anche Francesco Giavazzi e chiaramente Giuliano Amato, per i tecnici che aiutano i tecnici. La politica ha avuto un po' di mal di pancia, noi ieri l'abbiamo detto, chi ci avesse sentito lo sa, a me personalmente sembrano delle scelte ottime Enrico Bondi in primis, visto il lavoro eccezionale che ha fatto in Montedison e poi in Parmalat, ma anche Francesco Giavazzi e anche Giuliano Amato. Comunque, la notizia in breve. Vedo già molti messaggi sul tema del fatto che i tagli, la spending review, questo vuol dire la revisione della spesa, non riguardi il Parlamento, la Corte Costituzionale e il Quirinale. Allora, io, secondo me è un errore, banalmente, non solo, non tanto perché il nostro Quirinale costi gran più rispetto a Buckingham Palace, ma anche e soprattutto perché il Parlamento andava infilato, no? Nei tagli dei costi, no? Andiamo avanti, per quello che riguarda il petrolio siamo a $105 al barile, l'oro a $1,654 l'oncia, la Bolivia nel frattempo ha nazionalizzato, la notizia di ieri in serata, ha nazionalizzato tutto il pacchetto di azioni della Rete Elettrica Internazionale, che era una filiale della Rete Elettrica di Spagna, e qui è il secondo, tra virgolette, esproprio che la Spagna becca dopo quello operato dall'Argentina sulla controllata dalla compagnia petrolifera spagnola. Il governo argentino ha deciso di operare non un esproprio, ma insomma sì, un esproprio, una nazionalizzazione. Adesso lo fa anche la Bolivia. I dati sull'occupazione riguardano anche l'America, che ha creato ad aprile posti di lavoro, 120.000, minori però delle attese, è la cifra più bassa degli ultimi 7 mesi. E purtroppo in America è arrivato anche un dato che vede calare gli ordinativi all'industria, che poi sono un dato anticipatore di quello che sarà poi il fatturato dell'industria, sono calati dell'1,5%, e questo vuol dire che siamo al calo più forte da 3 anni a questa parte. La buona notizia riguarda la Grecia, incredibile ma vero, perché l'agenzia di rating Standard & Poor's ha rivisto al rialzo il voto a lungo termine sul debito greco. Cioè l'ha portato da default selective, potremmo dire fallimento pilotato, a tripla C, e quindi insomma esce dalla sfera del default, del fallimento. Faccio notare che lo scorso 19 aprile invece l'agenzia di rating Fitch aveva fatto l'operazione opposta, aveva portato il voto sulla Grecia a D, a default. Però voglio dire, meglio se non sono tutte d'accordo le agenzie di rating, a dimostrazione che esprimono opinioni, non verbo. Ministri delle finanze dell'Unione Europea riuniti a Bruxelles per cercare di avvicinare le varie posizioni europee sui nuovi requisiti che le banche dovranno applicare, si chiamano Basilea 3. Il tedesco Wolfgang Schäuble ha detto: non credo che arriveremo a un accordo, molto pessimista. Basilea 3 obbliga le banche, adesso non posso spiegarla tutta, a accantonare ancora di più, a mettere più soldi da parte quando presti soldi a privati, e quindi le banche lamentano che Basilea 3 le obbligherà a concedere ancora meno prestiti, perché devi mettere più soldi da parte rispetto a prima per ogni euro che presti a soggetti che vengono a questo punto ritenuti più a rischio. Gran Bretagna, Svezia e Polonia mantengono le loro riserve sul compromesso della presidenza danese. La proposta della presidenza danese di avere una flessibilità nazionale del 3% per i cuscinetti antirischio non è sufficiente. Svezia e Polonia chiedono una soglia più alta del 5%. Nel frattempo però Berlino fa sapere che la collaborazione con Roma è stata intensificata in questa fase di crisi, a dimostrazione che la Germania si sta preparando a una Francia con primo ministro, presidente della Repubblica Hollande, e quindi cerca una sponda italiana. E poi Angela Merkel e Mario Monti hanno parlato a marzo di una ratifica congiunta del Fiscal Compact. Berlino è d'accordo con Roma sulla disciplina di bilancio, sul fatto che il Fiscal Compact, questo vuol dire il rigore da applicare ai conti correnti, riducendo portando al 60% in 20 anni il rapporto debito-PIL. I debiti invece delle nostre pubbliche amministrazioni, attenzione ai conti, dice il ministro Passera, riferito ai 70 e più miliardi che lo Stato, le pubbliche amministrazioni, anche enti locali, regioni, la sanità soprattutto, devono alle imprese italiane. Ha detto Corrado Passera: attenzione, il tema della compensazione dei debiti e dei crediti va capito fino in fondo e occorre evitare danni sulla finanza pubblica. Quella della compensazione dei crediti e dei debiti nei confronti della pubblica amministrazione è un tema che va capito fino in fondo. Noi dobbiamo evitare di mancare gli obiettivi di finanza pubblica, e quindi dobbiamo evitare che attraverso la compensazione di crediti commerciali con debiti finanziari possa non essere messo a rischio l'obiettivo. Dobbiamo fare il possibile perché lo scaduto venga pagato, e anche i 6 miliardi che sono stati messi a disposizione per i debiti della pubblica amministrazione centrale vanno in questa direzione, però senza mai mettere a rischio gli obiettivi di finanza pubblica, che sono poi quelli grazie ai quali il nostro paese ha evitato il peggio qualche mese fa. E ancora una notizia invece che riguarda chiaramente l'Italia. In 15 anni, lo ha detto oggi il presidente della Agcom Corrado Calabro, in 15 anni le telecomunicazioni hanno visto calare i prezzi del 33% contro un'inflazione del 31%. Sono l'unico servizio con una dinamica marcatamente antinflattiva, ha detto Calabro. Attenzione però, ha aggiunto, la rete fissa è satura, quella mobile rischia l'asma. Lo ha dichiarato al microfono della nostra Alessandra Schepisi. Il comparto delle telecomunicazioni è stato quello che ha contribuito a diminuire l'inflazione, l'unico che ha avuto una tendenza anti-inflattiva. I prezzi del settore sono diminuiti del 33%, del 15% solo in questi ultimi anni, a fronte di un aumento generale del costo della vita del 31%. Se pensiamo agli aumenti di acqua, energia, trasporti, è veramente una controtendenza molto vistosa. Eppure il settore ha tenuto, indubbiamente, perché è un settore in espansione, e ha tenuto pure in questi anni di stagnazione dell'economia italiana e anche in quest'ultimo triennio orribile. Ha tenuto ed è fiorente, ma non ha seminato per il futuro, perché il futuro significa alta velocità trasmissiva, quindi banda larga. Non solo la crescita dell'utilizzazione del mobile è esponenziale, ma molti altri servizi sono in continuo sviluppo. Senza le reti di nuova generazione la rete rischia, non voglio dire strozzature, ma crisi asmatiche certamente. hanno recentemente acquistato all'asta frequenze per 4 miliardi gli operatori mobili, questo è certamente apprezzabile, ma non si può prescindere nemmeno dalla fibra nella rete fissa e nel backhauling dalle centrali radio ai collegamenti. Senza questi investimenti lo sviluppo del paese finisce su binari morti. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. Eh sì, la nostra rubrica torna sulla crisi degli altri. Allora, per difendere i più deboli, nel 2011 l'associazione Avvocato di Strada, sono degli avvocati che volontariamente chiaramente si mettono a difendere chi non può pagare la parcella. Nel 2011, dicevo, l'associazione ha dovuto aprire più pratiche e tra gli assistiti negli ultimi 3 anni, ha fatto sapere, sono quasi raddoppiati gli italiani. Prima erano in larga parte extracomunitari che non potevano permettersi i costi dell'avvocato. Raddoppiati gli italiani, sono 2.360 pratiche contro sanzioni tipiche della povertà, ossia sanzioni per elemosina, per vagabondaggio. Poi fogli di via, decreti di espulsione, sfratti, permessi di soggiorno, ma anche padri separati che finiscono in strada e problemi di figli minori. Pensate che nel 2010 le pratiche erano state 2.000 e 2.300 invece nel 2011. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Eh sì, perché per alcuni la crisi proprio non c'è. Pensate che a Portici, vabbè, Portici avrà anche tanti altri problemi, è sufficiente esporre sulla propria auto il contrassegno con la scritta consigliere comunale per evitare il pagamento nelle strisce blu, quindi parcheggio gratis ma solo per il politico. Non esiste alcuna ordinanza che consenta ai consiglieri comunali di farla franca, ma sta diventando una consuetudine, un privilegio non scritto. Bell'esempio. Dico invece bell'esempio, arrivo da un altro comune, perché ha ragione Lanci nel dire i comuni non sono tutti uguali, ed è il comune di Capannori, in provincia di Lucca, perché ha deciso di dare una dote ai lavoratori disoccupati, una dote da portare in azienda quando vengono assunti. Che cosa ha deciso la giunta di Capannori? Ha detto il sindaco, che si chiama Giorgio del Ghingaro, spero di non sbagliare: potevamo limitarci a stanziare sussidi per chi ha perso o non trova lavoro, abbiamo cercato una soluzione che oltre ad assistere i lavoratori in difficoltà possa aiutare a far ripartire l'economia locale. In sostanza, i giovani che si iscriveranno nella lista di disoccupazione fino ai 30 anni, laureati fino ai 35, chi non ha avuto un lavoro da 2 anni e per gli over 50 da almeno un anno, porteranno all'azienda una dote di 5.000 euro se saranno assunti a tempo indeterminato e con la garanzia del mantenimento del posto per 5 anni. Questo per i giovani disoccupati. Per gli altri lo stanziamento sarà un po' più basso, di 3.000 euro. Comunque è un tentativo di fare qualcosa, mentre inspiegabilmente Parlamento, Quirinale e Corte Costituzionale vengono esclusi anche dalla sola revisione della spesa, e mentre l'ACLI oggi se ne esce con l'ACLI, sapete chi è, se ne esce con un rapporto, a mio avviso spero che si sbaglino, in cui un italiano su 3 interrogato pensa che per risolvere questa situazione ci voglia solo la rivoluzione. Allora, siamo in collegamento con Andrea Olivero, che è il presidente dell'ACLI, Associazione Cristiana Lavoratori Italiani. Buonasera, presidente. Buonasera a voi. E grazie anche all'editorialista del Sole 24 Ore, Guido Gentili. Buonasera, Guido. Buonasera. Con te vorrei parlare più di alcuni mal di pancia, a mio avviso fuori stagione, del PDL, del PD, dopo le dichiarazioni di Monti quando ha presentato la spending review. Comunque, andiamo con ordine, così magari anche grazie all'ACLI facciamo capire alla politica che aria stia tirando. Sulle spese al Quirinale, io lo dico con massimo rispetto verso il Presidente della Repubblica, però intervenga subito, nel senso che oltre che dare un esempio fondamentale in questo momento, io ricordo che il Quirinale ha speso è vero che ha ridotto un po' la sua spesa, ma costa comunque 228 milioni di euro, il dato è del 2010, ossia 4 volte le spese per Buckingham Palace. Ora non è che la regina Elisabetta sia proprio, no, viva pane e acqua, per cui, no, è 8 volte quanto è il budget della presidenza tedesca. Allora, Presidente Oliviero, voi avete fatto un sondaggio avete chiesto un insieme di cose. Quando uscirà l'Italia dalla crisi? Come saremo tra 10 anni? Quali riforme, che cosa bisognerebbe fare per uscire definitivamente da questa crisi? E come reagirebbero le famiglie italiane nel caso di imprevisto? Ci racconti lei la sintesi, partendo da questa cosa che a me ha fatto impressione. 1 su 3 ha detto ci vorrebbe una rivoluzione. Beh sì, il quadro che è emerso è particolarmente drammatico, ma perché io credo che alla fine l'antipolitica, la sfiducia sia talmente forte che una parte consistente dei nostri concittadini ormai non crede che ci sia più possibilità di riforma. E quindi invoca un cambiamento straordinario che, diciamoci la verità, appunto lascia tutti un po' perplessi evidentemente. Ma il punto è che da un lato... Però attenzione, perché qua andiamo alle amministrative. Ora, io non voglio entrare in temi politici che non competono a questo programma, ma c'è un partito, è inutile chiamarlo antipolitica, per favore, che è quello di Grillo, che su un'idea, non di rivoluzione cruenta, ci mancherebbe, ma insomma... di un meccanismo che va cambiato dalla testa ai piedi, rischia di, anche alla luce dei vostri dati, di beccare parecchio consenso. Certo. Ah, peraltro fa bene lei a dire non chiamiamolo antipolitica, perché chi si candida alle elezioni non è antipolitica. Ma perché? È stato uno scivolone, enorme del Presidente della Repubblica, mi dispiace, l'abbiamo sempre difeso. Ma su questo anche Giorgio Napolitano ogni tanto sonnecchia. Certo. Prego. Però il punto importante invece è il fatto che la gente ha la netta percezione che la crisi sia ancora molto lontana dal terminare e che comunque qui c'è una stragrande maggioranza delle persone che noi abbiamo elevato che appunto parla di una crisi che finirà non prima di 3 anni, qualcuno immagina persino che si protrarrà ancora più a lungo. In una situazione come questa c'è anche la visione di un pessimismo in prospettiva, cioè che comunque da questa crisi si esca più poveri, non si riesca in qualche modo a avere una vera uscita, cioè che alla fine si esauriscano le forze più che altro. E le risposte che sono state date fino ad oggi non convincono. Quello che si manifesta appunto in questa situazione è una grande situazione di preoccupazione, insicurezza, pessimismo, cioè sono questi gli elementi che più si avvertono. Sì, allora, poi c'è un altro dato che a me ha impressionato, sì. Presidente, quando voi avete chiesto di fronte a una spesa imprevista di 100 euro, 6 italiani su 10, anche fossero 4 su 10, anche se qualcuno è un po' esagerato, ma insomma 6 su 10 dicono che, certo, una spesa imprevista di 100 euro manderebbe in crisi il bilancio familiare, vuol dire che stiamo navigando proprio al pelo, È vero, certamente c'è molta percezione, però la percezione non va sottovalutata, nel senso che comunque indica paura e preoccupazione, e questa lo sappiamo benissimo, poi ha delle ripercussioni nel sociale. Questo noi lo stiamo denunciando a tempo, nel senso che se non si fa equità, se non si vanno a ripartire i pesi anche di questo risanamento in maniera diversa da come si è fatto fino ad oggi, poi alla fine una parte consistente del paese, in particolare le famiglie più povere, si ritrovano nella condizione dello scivolamento, da quella che è una condizione di media povertà, diciamo, di sostenibile austerity, a una condizione invece di povertà vera che appunto porta le persone a non avere il reddito sufficiente per affrontare tutte le spese che hanno davanti. E qui è un dramma, è un dramma, e questo naturalmente spaventa, preoccupa tantissimo. Infatti nel vostro sondaggio la prima richiesta è maggiore equità. Attenzione, maggiore equità non vuol dire minori sacrifici, vuol dire che i sacrifici devono essere fatti da tutti. Parlamento intenda, e anche il Presidente della Repubblica, è vero che c'è una legge che esclude dalla spending review, dalla revisione della spesa, il Parlamento, la Corte Costituzionale e il Quirinale. Però io sto dicendo che basterebbe un gesto volontario, autonomo, no? Vogliamo entrarci anche noi. No, lo dico perché ho la sensazione che spesso la politica non abbia ancora capito quanto profondo il mare. 25% maggiore, 25% maggiore equità, e poi al secondo posto maggiore moralità, e ci risiamo con la politica a tutti i livelli, Parlamento, regioni, comuni, 23% dicevo, e poi far leva sulla competenza, 18% delle classi dirigenti, e innovazione 12,7%. Mi diceva, mi scusi? No, dicevo che invece le persone hanno capito abbastanza bene che la politica non riesce a dare queste risposte, perché quando si dice chi ci toglierà dalla crisi, soltanto il 6% degli italiani dice un capo di partito, cioè non ci si affida più a loro, e questo è il vero grande problema, perché un problema è in questo momento, cioè ci si rende conto a parte del cittadino che questi non sono riusciti a riformarsi e quindi non riusciranno a darci le riforme. Allora Guido Gentili, con te poi parliamo delle nomine per le riforme che vogliono fare i tecnici e soprattutto delle reazioni di Cicchitto per il PDL, di Fassina per il PD, tutti arrabbiatissimi. Vabbè, però io vorrei restare sul pezzo in questo momento, perché la sensazione è, al di là di Grillo, al di là della rivoluzione, vedo molti messaggi, attenzione, uno può dire ci vorrebbe la rivoluzione, non è, questo non vuol dire che poi sia disposto il giorno dopo a scendere, per fortuna, in piazza e a farla sta rivoluzione, però la giustificherebbe, perché se la dà come risposta la vedrebbe come soluzione. Guido, qui insomma il mare è profondo, io ho la sensazione che ancora non tutto questo eco sia arrivato a Roma. No, è vero questo, c'è una fortissima richiesta di svolta nel paese, e a questa grande, immensa domanda l'offerta politica è ancora molto debole. Ricordavi tu prima i dati sulla spending review e sul fatto che la Corte Costituzionale, il Quirinale e il Parlamento, le Camere, non sono soggetti a spending review. Io aggiungo un dato, perché ricordo una audizione che fece nell'autunno del 2009 il Ragioniere Generale dello Stato Canzio, che tirò fuori una bella tabellina in cui alla fine c'era scritto 17 miliardi che sono le spese che non sono sotto di bilancio, che non sono sotto il controllo della Ragioneria Generale dello Stato. Pazzesco, è una manovra finanziaria. Ecco, quindi voglio dire, ovviamente non sono 17 miliardi che riguardano Corte Costituzionale, Parlamento no. Però è, diciamo, la massa complessiva di risorse che sfuggivano al controllo della Ragioneria Generale. Quindi questo ci dà l'idea di che partita. Io spero che se ne accorgano, perché la politica e i deputati e i senatori eletti sono la base della democrazia, nessuno sta contestando questo, però occorre tornare un po' in sintonia con il paese. Adesso ho il meteo e poi torno a ragionare con voi. Il costo annuo di mantenimento della Camera dei Deputati è di 1 miliardo di euro, il Senato costa 530 milioni di euro, siamo 1,5 miliardi, se ci sommiamo anche il Quirinale siamo 1,8 miliardi. È chiaro che questi costi non sono tutti comprimibili, però magari sapere che Senato e Camera spendono di affitto di immobili, perché hanno anche altre sedi, 45 milioni e mezzo di euro, no? Ma qualcosa si potrà tagliare su questi affitti. Il prezzo del mercato immobiliare è anche calato, andate a rinegoziarli, fatevi fare l'equo canone. Meteo. Un atteggiamento di faziosità e di provocazione da parte del Presidente del Consiglio, che dovrebbe esserci grati non solo per l'appoggio che gli diamo, ma anche per il fatto che questo governo, ma se l'è dimenticato nella sua polemica sull'ICI, ha fatto i famosi tagli lineari, e lui oggi si trova a dover sopperire alla incapacità dei suoi ministri con un commissario ad acta come Bondi, che finora si è occupato di tagliare imprese. Questa è la reazione di Fabrizio Cicchitto, capogruppo del PDL alla Camera, dopo che Monti, nella conferenza stampa di 2 giorni fa, aveva detto fu un errore levare l'ICI, perché già l'Italia era in stagnazione economica, già i conti andavano male, già c'erano prospettive negative e furono sottovalutate quelle prospettive negative. Adesso alcuni esponenti politici di allora, lì riferimento all'intervista di Giulio Tremonti al Corriere della Sera, ha detto Monti, adesso si accorgono che le tasse sono alte, prima, aggiungo io, dove erano. Ma Guido Gentili, anche Presidente Olivero, ascoltate anche la reazione di Stefano Fassina, oggi è bipartisan la reazione, che è il responsabile economico del PD, questa mattina ospite di Agorà su Rai 3, sempre sulle nomine. Queste nomine hanno fatto arrabbiare, e dice: non capisco il senso di queste nomine. Confesso di non aver capito il senso di queste nomine, perché quelle funzioni sono disponibili già nell'amministrazione. Ad esempio, il Ministero dello Sviluppo Economico ha già fatto una ricognizione molto accurata degli incentivi fiscali alle imprese. Anzi, mi pare che ci sia addirittura una bozza di disegno di legge che dovrebbe solo ricevere l'ok politico. Quindi mi confesso che non ho capito fino in fondo il senso di questa operazione, però credo che non dobbiamo fermarci qua, perché c'è stato comunque un passaggio importante in Consiglio dei Ministri. È stata completata la prima fase di analisi della spesa, traguardo che non era stato ancora raggiunto, e questo è un fatto positivo, perché per fare le cose fatte bene bisogna sapere dove si mette le mani. Queste nomine non le capisco, probabilmente il Presidente del Consiglio ha ritenuto necessario aiuto a qualche ministro. E poi lo scontro, sempre questa mattina, dopo queste dichiarazioni, tra il responsabile economico del PD Stefano Fassina e il capogruppo del PDL Maurizio Gasparri, sempre in tema di nomine, in particolar modo quella di Giuliano Amato. Stiamo parlando di un signore che è stato Presidente del Consiglio, che è uno dei più grandi giuristi italiani, adesso al di là delle vostre valutazioni, però che è stato il presidente adesso del comitato della celebrazione dei 150 anni, che ha portato la lira, stiamo parlando di una delle più importanti personalità di questo paese, spesso in ballo per la presidenza della Repubblica nelle decisioni future. Un curriculum da paura, ma guardi cosa succedeva in Italia in quegli anni quando lui stava con le mani in pasta. Amato è l'emblema della negatività. Fassina, mi aiuti a difendere Amato, perché ti sei preso Cicchitto, il tuo capogruppo alla Camera, che è stato uno dei principali collaboratori di Craxi, viene a fare le lezioni Amato. Ma per favore, ce le avete tutti dentro quelli, ce le avete tutti nel PDL quelli che hanno portato Mario Segre, Amato. Un pessimo Presidente del Consiglio. Ve li siete presi tutti dentro. No, guarda, ve li siete presi tutti. Quelli che stanno con noi sono persone serie e competenti. Allora, calma e sangue freddo. Fandini finisca che devo andare da Segre. I piduisti dei craxiani ve li siete presi tutti. Tutti ve li siete presi. Tutti i piduisti craxiani. Ma io non so come. Aspetta. Guido Gentili, vediamo se riesco a essere pacato. Sto facendo un certo sforzo. Qui abbiamo un governo di tecnici che è venuto a salvare la politica, perché voglio dire, se andavamo, la dimostrazione dell'ultimo governo ci aveva portato solo del baratro, che ha fatto alcuni errori, l'abbiamo criticato in queste settimane, però insomma, che nomina? Enrico Bondi, quello che ha risanato Montedison e Parmalat, che non vuole lo stipendio, addirittura ieri abbiamo fatto sentire questo battibecco, non vuole essere pagato, commissario straordinario per tagliare la spesa pubblica, di fatto. Poi nomina un professore come Francesco Giavazzi a vedere come si possono regolare i contributi alle imprese, perché sono tanti però usati male. E Giuliano Amato, lì Gasparri, mi dispiace, ma vada a ristudiarsi la storia, Giuliano Amato fu chiamato dopo l'espulsione dell'Italia dallo SME a salvare la lira. Gasparri, lei c'era già in Parlamento, così come Cicchitto, lasciate stare che Cicchitto fosse iscritto alla P2, ma era iscritto al Partito Socialista Italiano, per cui voglio dire, è tutta gente che appartiene alla generazione che ha creato questo cavolo di debito. Guido, tornando al discorso che faceva prima il Presidente dell'ACLI, la distanza è questa, è siderale, no? Cioè, discutono sui pomelli del Titanic, su come lucidarli, e intanto il Titanic va avanti. Sì, purtroppo siamo in una situazione internazionale molto difficile, e quella italiana, oggi ho visto anche che c'è questo appello del governo di Palazzo Chigi ai cittadini perché segnalino via web gli sprechi pubblici. Ora, questa è un'iniziativa, per carità, può anche essere utile, però insomma, ecco, non vorrei, il cronoprogramma del supercommissario Bondi è fissato in 15 giorni, se non vado errato, quindi non vorrei che questa poi dovesse occorrere poi una commissione tecnica per valutare quello che hanno, le migliaia e migliaia, credo che arriveranno segnalazioni dei cittadini sugli sprechi pubblici. Insomma, qui siamo a un punto di svolta per il Paese, non possiamo permetterci distrazioni né da parte del governo né dalla classe politica che, come abbiamo detto, però purtroppo non dà dei segnali, delle risposte confortanti rispetto alla domanda. Non gliela fa, come te vuoi a Roma, non gliela fa. Purtroppo sembrerebbe proprio di sì. Non ha. Allora io vorrei chiudere col presidente delle ACLI, perché magari l'avete girata a tutta la classe politica la vostra inchiesta in cui un italiano su tre vuole la rivoluzione e solo il 6% ritiene che la politica possa cambiare le cose. L'avete girata? Che no, perché... L'abbiamo girata assolutamente, e non solo, ma chiederemo anche espressamente conto rispetto alle questioni che ci sono. Penso che lo faranno già i cittadini nelle prossime elezioni, lo faranno, cioè i segnali ho l'impressione che arriveranno da più parti. Il problema è che devono smetterla appunto quanti in questi 20, 25, a volte 30 anni hanno governato, di pensare di aver loro le ricette in tasca. Provino ad avere un po' più di umiltà e a interrogarsi. Ma anche perché il tempo l'hanno come avuto. Mai non sono riusciti a appunto, come mai non sono riusciti a fare nulla. Sentivo il circuito prima, diceva questo governo ha fatto solo tagli lineari, ma quello precedente sono 2 anni che andiamo avanti a tagli lineari. È chiaro che se adesso si inizia a guardare anche sul come si spendono i soldi, ben venga, dovrebbero essere loro per primi ad applaudire. Ma io dico una cosa, parliamo di politica economica in questo programma, non di politica tout court, però è insopportabile, l'ho già detto anche nei confronti dell'ex ministro Tremonti, che abbiamo difeso quando manteneva il rigore del deficit in Europa, ci siamo beccati anche le critiche per questo, ma è insopportabile vedere chi ha fatto parte del governo fino all'altro ieri, fino a novembre, spread a 550 punti, parlare come se fosse un visitatore marziano alla Calvino che arriva in Italia, guarda, dice però qui insomma... Attenzione, questa cosa non funziona, dovreste fare meglio. Ma tu dov'eri? Ministro Tremonti, gliel'ho già spiegato cosa pensiamo, ex ministro, del suo rapporto col presidente del Consiglio Berlusconi di allora, che portò ulteriore discredito all'Italia perché non si parlavano i due, e poi le misure non le hai fatte. Allora, buono lì, un po' di autumiltà. Guido, ma perché fanno così? Dammi una risposta in un minuto, perché non ce la fanno proprio, perché è come lo scorpione alla rana. È uno spettacolo da questo punto di vista indecente. Ricordavi Tremonti, che io voglio rammentare che nell'aprile del 2011, cioè un anno fa, lui era molto schierato a favore dell'Euro Plus, del Fiscal Compact, di quello che sta in divenire sarebbe poi diventato il Fiscal Compact, con diciamo una visione molto tedesca della situazione, e oggi invece ha cambiato linea ed è sulla posizione di Hollande. E vorrei ricordare anche il ministro dell'interno, Maroni, che per 3 anni è stato ministro degli interni e oggi ha in qualche modo sollecitato la rivolta dei comuni per il suo pagamento del sì, ma è lo stesso Maroni che ci ascolta, che salutiamo, che però ha dato il nome a una riforma delle pensioni che poi in maniera sbagliata il governo Prodi levò, quando toccò di nuovo al governo Lega PDL non la voleva più la Lega, cioè sconfessò la riforma che portava il suo nome. Qui siamo veramente, dai. No? Le cose che sconcertano l'opinione pubblica e che l'opinione pubblica non capisce e non sopporta più, e da qui torniamo al discorso che facevate con il presidente delle ACLI. No, anche perché, visto che hanno tutta questa memoria i politici, si ricordassero come dicono, il 92 come nacque, poi tangentò tutto il resto, perché c'era una crisi economica. Non ci stavano più dentro gli imprenditori in quel caso, non potevano più sopportare i costi della politica. Allora era solo un problema politici imprenditori, corrotti e collusi o collusi e corrotti. Adesso il problema è riguarda tutti gli stati sociali, come raccontiamo da settimane con l'iniziativa Disperati Mai assieme a Oscar Giannino e a buona parte della radio. Arrivano email da tutte le categorie, che sia un artigiano, una partita IVA, un operaio, un piccolo imprenditore. Non è più un problema, diciamo, dei costi della politica per le imprese che prima li oliavano. Grazie a Guido Gentili, grazie al presidente delle ACLI, non è che ci abbia tirato sul morale, presidente, però insomma Olivero, lei avrei voluto farlo, ma peccato. Ma lei se l'è chiesto perché la politica fa così? Anche lei avrà una risposta, Gentili me l'ha data, ma lei? L'impressione è che non si rendono ancora conto assolutamente di quale sia la realtà vera del paese. A forza di rimanere sempre all'interno degli stessi gruppi non riescono nemmeno più a capire cosa sta succedendo fuori. Grazie anche a lei, chiedo venia agli ascoltatori, ho detto Calvino, in realtà era Flaiano, un marziano a Roma, e il riferimento è sfuggito, traffico e poi la borsa. Eccoci di nuovo in diretta per parlare di borsa. Allora, visto il tono della giornata a Milano, soprattutto meno 2,60%, come sempre il commento lo facciamo con Radio Cori, il Sole 24 Ore, Però io farei una cosa un po' diversa, ascolterei l'elemento complessivo, poi andiamo a fare la lista dei singoli titoli. Da noi la borsa perde più che a Parigi, più 0,40, ma soprattutto Francoforte, meno 0,70, e Londra, meno 0,90, perché le banche incidono molto. I dati sulla disoccupazione in Spagna, ma non solo, pesano su tutta Europa. Eleonora Micheli, buonasera. Buonasera. Sì, il commento detto, generale, sì, grazie. Sì, come hai detto tu, Piazza Affari e Madrid sono state le peggiori d'Europa e peraltro hanno imboccato la strada del ribasso sin dalle prime battute di questa mattina. Dopo un avvio positivo insieme al resto d'Europa hanno subito virato a ribasso risentendo dei dati sulla disoccupazione. Purtroppo a marzo la disoccupazione è salita al 9,8%, il massimo dal 2004 in Italia. Anche in Europa è peggiorata al 10,9%. Poi nel pomeriggio anche i dati dall'America sono stati poco entusiasmanti. Secondo l'istituto ADP sono stati creati ad aprile solamente 119.000 posti di lavoro, così Wall Street è partita debole, trascinato giù tutte le borse europee, tra le quali appunto Francoforte e Londra, che tuttavia hanno ridotto le perdite a rispettivamente lo 0,75% e l'1% circa. Parigi è stata l'unica che è andata su, in questo caso c'è l'attesa per le elezioni presidenziali che si terranno questo weekend. Milano, come hai notato tu, è andata male soprattutto per le banche, del resto lo spread continua a rimanere su livelli elevati attorno a 400 punti e penalizza quindi la valutazione dei principali istituti, che hanno accusato tutti perdite attorno al 4-5 se non 6%. UBI addirittura ha perso il 7,1%. E allora vediamo anche nel singolo i titoli, nei singoli casi. UBI Banca meno 7%, pesante però su UBI oggi, e anche Unicredit meno 5,60, Popolare Emilia Romagna meno 5,40, Popolare Milano meno 5,30, Monte dei Paschi meno 5,20, Banco Popolare meno 4,90, Intesa meno 4,60%. E lì, vabbè, spread, ma preoccupazioni per l'ennesimo dato che segnala un'Europa infrenata. Anche la Germania, ne parliamo nella seconda ora di disoccupazione, anche la Germania ha visto aumentare i disoccupati e si attendeva invece un calo di disoccupati. Noi modestamente, sommessamente continuiamo a dirlo, attenzione che se affonda il Titanic affonda anche la prima classe. Salvatore Ferragamo, Realizzi, meno 6,61%, ho visto Luxotti che invece è bene, più 3,07%, Pirelli più 2,30%, A2A è pesante, meno 5,15%. Sì, per quanto riguarda Pirelli non ci sono grandi motivazioni se non il fatto che oggi Volkswagen ha dato i dati della controllata Audi. Ancora una volta nel primo trimestre Audi ha riportato risultati da record, un balzo delle vendite del 10,8% e un utile operativo a 1,4 miliardi, anche questo in progresso del 26%. E ovviamente Pirelli è legata a doppio filo un po' a tutte le principali case auto e Volkswagen è la prima al mondo, quindi se i conti vanno bene ne beneficia anche chi vende le gomme. Per quanto riguarda Luxottica, la scorsa settimana si è tenuta l'assemblea dei soci che ha approvato i conti 2011, ricordiamo, dal record, con un fatturato superiore a 6 miliardi, ma soprattutto l'amministratore delegato Andrea Guerra ha continuato a ribadire che anche il 2012 sarà un anno di crescita, soprattutto grazie all'andamento dei principali mercati emergenti, e peraltro ha detto che anche i risultati dei primi 4 mesi sono comunque di crescita consistente, come appunto era stato registrato negli ultimi mesi del 2011, quindi questo ha incoraggiato di nuovo le vendite che oggi non si sono viste invece su altri titoli del settore della moda, ma avevano corso molto. Sì, io avevo chiesto A2A, ma comunque ottima anche la spiegazione del resto, ma A2A? A2A invece meno 5%, in questo caso c'è ancora la vicenda Edison, che è tutto da vedere che cosa succederà, probabilmente qualche novità si avrà già prima del fine settimana, in quanto deve essere si vorrebbe che fosse risolta la questione Edison prima delle elezioni presidenziali in Francia. Ricordiamo che Edison infatti ha nel proprio azionariato EDF, che anzi ha proposto un'OPA, verrà rivisto il prezzo dell'OPA, però è una partita ancora tutta da scoprire. Altri titoli, Salvatore Ferragamo con la corsa che ha fatto appunto ha realizzato qualche realizzo anche su Cucinelli, ha perso il 7%, ma ragazzi col botto del Kashmir. Allora, Cuccinelli ha perso alla fine il 7? Sì, d'altra parte venerdì scorso ha fatto più 50, lunedì ha guadagnato un altro 3%, quindi ci sta tutto. Ci mancherebbe. Peggior titolo Italy One Investment meno 15%, miglior titolo Juventus Football Club. C'è già chi immagina sì, che sta lo so, Eleonora, fammelo dire, vedere la partita. Fammelo dire, potrebbe vincere lo scudetto questa sera. Ognuno la pensa come vuole, più 15-60%. Grazie, Donora Micheli. Il GR, poi parliamo di lavoro. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dopo aver commentato la brutta giornata di borsa su tutte le borse europee e anche le tensioni a inizio programma interne alla maggioranza dopo le scelte del governo tecnico di appoggiarsi ad altri tecnici, dopo la critica di Mario Monti a come fu levata dal precedente governo Berlusconi l'ICI e anche come non si capì probabilmente che le manovre devono essere più urgenti. Veniamo adesso al tema del lavoro. Come dicevamo, in realtà è proprio il dato sulla disoccupazione a livello europeo, ma non solo, ad avere contribuito a far peggiorare il clima nelle borse europee. E qui ho visto molti messaggi sulla mia dichiarazione precedente. Allora, storicamente, prima dell'inizio della crisi, quindi fino al 2006, spesso vedevamo, soprattutto nelle borse americane, ma non solo, che quando arrivavano dei dati con una disoccupazione leggermente in aumento, le borse festeggiavano, tra virgolette, con una bella dose di cinismo, ma il ragionamento era, se le aziende hanno licenziato, avranno dei dati, dei conti economici migliori, miglioreranno quello che è il fatturato e soprattutto l'utile o ridurranno le perdite. Per cui la borsa paradossalmente, ma fino a un certo punto paradossalmente, festeggiava, cresceva nel 2002, 2003, 2004, quando c'era un aumento del tasso di disoccupazione. Adesso no, perché, e questo dice lunga sul clima che si respira in Europa, il dato di oggi è la conferma di un'Europa che per buona parte nell'area continentale, anche la Gran Bretagna ha i suoi problemi, ma insomma nell'area continentale, eccezione fatta per la Germania, è un'Europa che attraverserà un 2012 difficilissimo, fatto di stagnazione dei consumi, se non calo dei consumi, un po' di inflazione che arriva dal petrolio e quindi su gasolio e benzina, e aumento delle tasse, riduzione dei posti di lavoro. E quindi il dato di oggi viene letto come la conferma che c'è un'Europa in totale frenata. E mi dispiace se sono polemico con la Germania, in realtà non me ne frega nulla, anche di questo si devono rendere conto i tedeschi. Tedeschi che tra l'altro oggi hanno avuto un primo leggero aumento, niente a che vedere con i paesi più in difficoltà, però la Germania ha avuto un aumento della disoccupazione ad aprile rispetto al mese di marzo. La disoccupazione in Germania è salita al 6,8% contro il 6,7% di marzo, con i disoccupati aumentati di 19.000 unità a 2.900.000 persone. Le attese erano di un calo dei disoccupati in Germania di 10.000 persone. Il dato complessivo sull'Unione Europea vede una disoccupazione schizzare al 10,9% nell'area 17, dopo il 10,8% di febbraio, e se guardiamo un anno prima siamo a un punto percentuale in più, cioè nel marzo del 2011 la disoccupazione era al 9,9%. Adesso siamo al 10,9. Il paese con la disoccupazione più alta resta la Spagna al 24%, nell'Unione a 27%, però il dato di oggi che riguarda l'Unione Europea a 17 paesi è il dato più brutto, o meglio, la disoccupazione più alta dal marzo del 2001, e quindi sul fronte dell'occupazione si può tranquillamente dire che ci siamo mangiati 10 anni di crescita occupazionale. Poi, se vogliamo fare ascoltare la frase mitica del ministro Tremonti che diceva vabbè, ma anche tornare nel 2007 non si stava così male nel 2007, uno potrebbe dire vabbè, ma anche tornare a livello del 2001 non si stava così male nel 2001. In realtà non si può ragionare così con la statistica, era chiaramente una battuta quella dell'allora ministro Tremonti, perché perdere 10 anni di crescita occupazionale significa, come nel gioco dell'oca, tornare alla casella di partenza. Questo è il quadro europeo. Dentro questo quadro europeo purtroppo l'Italia non fa eccezione, e anzi il nostro tasso di disoccupazione si avvicina è praticamente lì al 10%. Ricordo anche che le statistiche in Italia però non considerano come disoccupati i cassa integrati, sono circa 250.000 persone, mentre in altri paesi quando ricevi il sussidio di disoccupazione sei un disoccupato. Da noi la statistica non li contempla, però è inutile girarci attorno, è chiaro, l'abbiamo già detto, che chi, cioè queste 250.000 persone che vivono con il 60-70% dello stipendio, ricevono quasi di fatto un sussidio di disoccupazione. Non possiamo certo dire che un cassa integrato è un occupato a pieno titolo. Detto ciò, i dati italiani 349-238-6666 per i vostri sms. Saliti dal 9,6% al 9,8% i disoccupati in Italia, il numero complessivo è di 2.500.000 persone, 66.000 disoccupati in più rispetto a febbraio, e la cosa impressionante è il raffronto rispetto al marzo del 2011, sono 476.000 disoccupati in più. E poi resta il nostro livello quasi record europeo sulla disoccupazione tra i 15 e i 24 anni, quindi dei giovani, è arrivata al 36% a marzo contro il 33,9% di febbraio, e anche qui si vede che se la disoccupazione complessiva sale di 0,1, la disoccupazione giovanile sale addirittura di 2 punti percentuali, a dimostrazione che la crisi c'è per tutti, ma si sta scaricando sul fronte occupazionale su chi ha tra i 15 e i 24 anni. Se poi uno fosse amante delle statistiche, basterebbe ricordare che in Italia siamo a una disoccupazione che non si vedeva dal 2004, al 9,8%. Come direbbe il ministro Tremonti, l'ex ministro Tremonti, nel 2004 non si stava così male. Peccato che il gennaio 2004 sia l'anno da cui iniziano le serie storiche mensili, per cui in realtà non sappiamo come il dato potrebbe essere ben più brutto. Infatti, se si guardano le serie dei trimestri, è il dato più brutto dal terzo trimestre del 2000. Professor Carlo D'Aringa, docente di economia politica all'Università Cattolica di Milano, editorialista del Sole 24 Ore proprio sui temi dell'occupazione, del mondo del lavoro. Buonasera. Buonasera a lei e agli ascoltatori. C'è poco da commentare quando i giovani disoccupati toccano il 36% del totale e i dati ci riportano indietro al 2004 per quello che riguarda la disoccupazione giovanile e per quello che riguarda le serie storiche al 2000 nella disoccupazione invece in media, il 9,8%. Il ministro Passera ha detto tutto sta andando come purtroppo si prevedeva. Tutto sta andando come purtroppo si prevedeva. Oggi abbiamo l'effetto combinato di una recessione partita da molti mesi, ma che segue a un decennio di crescita insufficiente. C'è l'effetto sicuramente delle misure che si sono dovute prendere per evitare lo scivolamento dei conti pubblici. Non ci possono naturalmente ancora essere gli effetti di provvedimenti strutturali sullo sviluppo, per cui è il momento in cui bisogna mantenere la barra al centro, continuare a accelerare sulle riforme, assicurare il più possibile anche risorse all'economia, e quindi in questo senso abbiamo accelerato tutti i progetti di infrastrutture, tutti i progetti che possono portare risorse, stiamo finalizzando i decreti sia al Ministero dell'Economia e delle Finanze sia al Ministero dello Sviluppo per rendere liquidabili debiti scaduti della pubblica amministrazione. Si farà di tutto per accelerare lo scaduto anche tra privati. Quindi è una combinazione di riforme e di risorse all'economia che deve farci, metterci in condizione di uscire il più velocemente possibile dalla recessione. E poi la Presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia, ha definito preoccupanti gli ultimi dati sulla disoccupazione. La CGIL parla di dramma sociale, la disoccupazione reale, quindi considerando anche la cassa integrazione una parte degli scoraggiati, secondo la CGIL arriverebbe al 13%. Il leader della CISL, Raffaele Bonanni, ha detto: si sta creando una miscela esplosiva nel paese tra aumento della disoccupazione, delle tasse, blocco degli investimenti pubblici e privati, e il 2012 si sta confermando come l'anno più nero per la disoccupazione. Il governo dei professori non basta, occorre un patto sociale. Allora, abbiamo già parlato di questo mal di pancia anche dei sindacati verso il governo dei tecnici, che abbiamo criticato più volte, però caro Bonanni, lei ci deve dire che cosa avrebbe ottenuto da un governo politico con la politica messa come la vediamo, no? E vedremo come uscirà dopo le amministrative. Sul patto sociale, vabbè, ne parliamo anche con il professor Della Ringa. Professore, le chiedo solo un minuto di pazienza perché abbiamo le informazioni sul traffico, poi a lei l'analisi, cercando di vedere se c'è anche qualche dato che non sia solo questo flusso continuo di aumento dei disoccupati, se qualche dato così che si possa sviscerare per vedere tendenze future. 349-238-6666 per i vostri sms, poi leggerò alcune anche delle lettere arrivate anche oggi all'indirizzo disperatimai@radio24.it. Il traffico. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barigioni. Allora, professor Della Ringa, il mainstream, il flusso si conferma, le parole del ministro Passera le abbiamo sentite, purtroppo sta andando come si prevedeva, e devo dire che ha ragione in questo caso però anche la CIS nel dire che il 2012 è l'anno più nero per la disoccupazione. Nel 2009 avevamo avuto un botto di cassa integrazione perché si era fermato il mondo, quello nostro soprattutto, però non si era ancora trasformata in disoccupazione, professore. Cioè non così tanto. Sì, certamente ha ragione il ministro Passera che tutto sta succedendo come si prevedeva. Purtroppo tutto succederà anche come si sta prevedendo per il futuro, perché anche lo stesso governo sta prevedendo un futuro di quest'anno perlomeno ancora nero dal punto di vista della recessione, quindi dobbiamo aspettarci qualcosa ancora di più negativo sul fronte dell'occupazione. Però vorrei fare una lettura che riporta un po' le cose entro i propri limiti e così come si legge dai dati. Diciamo, non è una nota positiva, però una nota meno drammatica è che l'occupazione tiene ancora abbastanza. Ecco, spieghiamo sempre la differenza, perché i disoccupati sono quelli tra le persone che cercano un lavoro e non l'hanno trovato. Gli occupati invece sono, preso 100, il numero di persone che potrebbero lavorare, quelli che lavorano effettivamente. Le cose non sono identiche perché molti possono non cercare il lavoro per vari motivi, perché preferiscono stare a casa, perché pensano che non lo troveranno, per scelte private, e quindi quelli non sono occupati ma non sono nemmeno disoccupati. Spero di avere tre gruppi occupati, quindi quelli va bene occupati, a parte cassa integrati che sono formalmente occupati, quindi registrati come occupati ma magari a rischio di, però sono occupati. Poi abbiamo i disoccupati, quelli che non hanno lavoro e lo cercano attivamente, cioè fanno delle azioni concrete, rispondono a cose sui giornali, presentano i curriculum alle imprese, vanno agli uffici di collocamento. Poi ci sono gli inattivi, che sono magari quelli che vorrebbero lavorare ma non fanno nulla di particolarmente intenso per darsi da fare, per trovare un lavoro. Ora, gli occupati non stanno malissimo, cioè in un anno si sarà ridotto di qualche decina di migliaia, ma i disoccupati sono aumentati di 500.000. Allora dobbiamo chiedersi, probabilmente il mondo produttivo non ha fatto ancora una ristrutturazione tale da causare perdite fortissime di posti di lavoro. E forse questo perché i mercati sono ancora piuttosto dubbiosi, perché una ristrutturazione all'insegna di una maggior produttività, efficienza, forse non c'è stata ancora nel nostro paese, perché gli occupati tengono, sono ancora tenuti lì un po' dagli ammortizzatori sociali. Invece abbiamo 500.000 in più di disoccupati. Da dove sono venuti? Sono venuti da quegli inattivi, da quelli che noi spesso diciamo scoraggiati perché non si danno molto da fare, però vorrebbero lavorare e si dice non cercano nemmeno più perché pensano di non trovare lavoro. Bene, 500.000 di quelle persone lì da 8 mesi a questa parte si danno da fare, dannatamente si danno da fare, ricercano intensamente un lavoro e l'ISTE quindi non li registra più inattivi, scoraggiati, ma proprio molto incoraggiati a trovare lavoro. Che segno è questo? Di un aumento di offerta di lavoro. Va interpretato, secondo me, anche sulla base del fatto che i redditi familiari sono in grande sofferenza. Aumenta l'inflazione, aumenta la cassa integrazione, i salari non tengono dietro l'inflazione e si pagano più tasse e il futuro è incerto perché ci sono gli esodati e tutto quanto. In queste condizioni, quelle donne, quei giovani che fino a poco tempo fa potevano permettersi di cercare lavoro, sì, ma nemmeno molto intensamente, adesso sono con l'acqua alla gola, alla canna del gas e sono costretti a cercare il lavoro molto intensamente. Purtroppo 500.000 di questi lo cercano più intensamente, ma non lo trovano. Quindi è segno di un forte disagio sociale, ancorché l'apparato produttivo non abbia ancora iniziato a fare quel reshuffle, quello shake out, quella ristrutturazione che forse sarebbe necessaria per riacquistare produttività e efficienza. Sì, so che può sembrare avere alcuni messaggi paradossali, però in realtà è molto più lineare quello che ha appena raccontato il professor Della Ringa, e cioè l'occupazione tiene. Gli occupati sono ancora 22.947.000, il 57% di chi potrebbe, e non c'è stato un calo significativo, meno 0,1% rispetto a febbraio. Sono aumentati i disoccupati, e di parecchio rispetto a un anno fa, di 500.000 di persone quasi, 470.000 disoccupati in più. Perché questo? Perché molte delle persone che prima erano inattive, quindi non figuravano tra i disoccupati, non lo cercavano un lavoro, hanno deciso di cercare il lavoro e quindi per l'Istat diventano disoccupati, cioè chi lo cerca ma non lo trova. Perché queste persone non cercano il lavoro? Perché la crisi morde, quindi chi prima poteva tra virgolette permettersi di stare a casa, magari faceva lavori domestici, magari abitava con i genitori, adesso si sente in obbligo anche lui di cercare un lavoro e quindi va fuori, chiede, si iscrive alla lista di disoccupazione e viene fotografato dall'Istat. Ecco perché abbiamo un numero di occupati sostanzialmente in leggerissimo calo, ma 500.000 di disoccupati in più. Prima questi qua se ne stavano a casa e non risultavano. Professor Della Ringa, resti con noi perché proprio per a sottolineare anche quelle che sono le difficoltà delle famiglie italiane e degli italiani in generale. Ricordavamo prima che l'ACLI ha diffuso un sondaggio per cui per un italiano su tre servirebbe addirittura la rivoluzione. Io vorrei leggere ancora 2-3 lettere ancora per oggi arrivate all'indirizzo disperatimai@radio24.it. La nostra iniziativa per i piccoli imprenditori, artigiani, commercianti in difficoltà resta, e lì è sul sito, anche gli aiuti che vengono offerti li trovate sul sito di Radio 24. Buongiorno, ho investito in un negozio di musica trasformando un hobby con competenza in lavoro. Sono stato letteralmente travolto da internet e dalla grande distribuzione, nonostante la scelta di aprire in centro città e puntare sul servizio e la qualità. Mi sono ridotto a dover acquistare CD nella grande distribuzione per poter essere più competitivo, perché i prezzi di acquisto erano più bassi dei miei fornitori grossisti. Finanziamenti zero, in quanto ad un'impresa nuova non viene concesso nulla. Ho tenuto duro finanziando l'attività con parte dello stipendio di mia moglie. Alla fine, per non fare debiti, ho mollato. La licenza me l'ha acquistata una grande distribuzione a un terzo del valore di quella pagata. 2 anni dopo il fisco, con lo studio di settore, mi ha comminato una sanzione di 50.000 euro. Ho negoziato letteralmente in lacrime 35.000 euro che ho potuto rateizzare facendo una fideiussione per pari importo che ha congelato i nostri risparmi per 3 anni. A 58 anni faccio il casalingo, cresco i nipotini, mia moglie paga i miei contributi INPS. Lavoro inesistente, autostima sotto i tacchi, senza lavoro e anche senza pensione. Per la legge Fornero, quando potevo accedere con la vecchia norma il prossimo anno. Non avete idea di quanto siamo silenti, tristi e pieni di energia ancora da dare. Buongiorno, mi chiamo... tralascio il nome, mi chiamo Luciana. Ho ricevuto il questionario del redditometro e fino a qui niente di male. Lo leggo e mi danno solo 15 giorni per produrre una documentazione di 5 anni. Io mi reco di persona per chiedere almeno ancora 15 giorni, verbalmente mi dicono di sì. Vado a casa, scrivo, non c'è nessuna risposta, scrivo di nuovo, nessuna risposta. Allora chiamo, non risponde nessuno, lascio un messaggio ma non vengo richiamata. Io vi giuro, non mangio da giorni, mi trovo di fronte a un muro, ora non so a chi rivolgermi, da onesta mi preoccupo. Sono paralizzata e anestetizzata, non riesco a reagire quando davanti sia un muro. Vorrei chiedere a voi un consiglio per una mamma con 3 bimbi piccoli che continuano a vedermi con gli occhi gonfi di lacrime. A chi posso rivolgermi per essere assistita? Professore Della Ringa, ne abbiamo centinaia di queste mail. Io la ringrazio anche per la sua analisi, come sempre non scontata e dentro le cose. Auguro a voi tutti una buona serata. Noi continueremo, alcune più emblematiche, altre più rappresentative, a leggere le vostre lettere anche nelle prossime puntate di Focus Economia, che torna domani dalle 17 in poi. Da Sebastiano Barisoni, auguro di buona serata.